Lorenzo, ci racconti un po' la tua storia, perché cade, come si dice in marchigiano, a cocco di pippa? Grazie di esserci, perché voi questa mattina capitate, come si dice, a fagiolo. A fagiolo, ecco. Buongiorno. Lei non è Sant'Antonio da Padova? No, io sono Gianni. Buongiorno, signorine. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Suo padre, secondo la mitologia greca, si chiama Chaos, e sua madre Caligine, suo fratello Erebo. Da lei sono nati Etere ed Emera, la luce e il giorno, ma anche Eris, la discordia, Ipnos, il sonno, con il suo gemello Tamato, Nemesi, la vendetta, e Momo, il sarcasmo. Non stiamo naturalmente parlando di una persona, ma della notte, amici cari, l'altra faccia del giorno, accogliente, magica, intrigante, ma anche per qualcuno paurosa, oscura, minacciosa. C'è chi nella notte trova riposo e c'è chi lo vorrebbe tanto, ma non ci riesce. E già, infatti, ci state scrivendo in questo senso. C'è chi nella notte trova conforto, chi invece affanno, chi la notte la teme, chi dalla notte invece si fa sedurre. La notte piccola per noi, troppo piccolina. La notte piccola per noi, cantavano le gemelle Kessler. E com'è per voi invece la notte? Che fate? Dormite, sognate, russate, scalciate, parlate? Avete incubi? Lavorate, digrignate? Chi dorme accanto a voi la notte? Un partner che russa o un cellulare che vi permette di rimanere sempre connessi? 800 24 00 24. Se vi facciamo tutte queste domande abbiamo una giustificazione, non è solo perché io e Nicoletta, come sapete bene, siamo curiose come le scimmie e vogliamo sempre farci i fatti vostri, ma oggi abbiamo una buona ragione per entrare nelle vostre case, nelle vostre camere da letto, e perché è la giornata mondiale del sonno. Allora salutiamo, ed è con noi oggi qui in studio, dottor Lino Nobili, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Responsabile del centro di medicina del sonno dell'ospedale Niguarda di Milano. Dottor Nobili, giornata mondiale del sonno, un appuntamento importante per ricordare a tutti che il sonno è vita e la sua qualità ha delle ricadute straordinarie sul nostro benessere. Se è vero che chi dorme non piglia pesci, la ricerca ci dice che chi dorme bene ci guadagna in buon umore, prestazioni mentali migliori, ma anche migliori prospettive di salute. Assolutamente così. Noi passiamo un terzo della nostra vita dormendo e durante il sonno si svolgono differenti processi che riguardano sia la nostra attività cerebrale, quindi influenzano il nostro tono dell'umore, la memoria, come ha detto, ma anche tutto il nostro sistema cardiovascolare, il nostro sistema immunitario, e ci possono essere dei disturbi che interferiscono in maniera anche molto significativa con le nostre funzioni cardiovascolari e immunitarie. Quindi preservare un buon sonno è fondamentale. Il problema è che dormire non è così facile come sembrerebbe, e a disturbare il nostro sonno ci si è messa anche la crisi. La nostra donna di denari ha subito qualche numero pronto per noi, perché la crisi economica, insomma, ha invaso le nostre, i nostri sogni e i nostri sonni. Devo dire che c'è anche qualche ascoltatore che vorrebbe appunto raccontarcelo all'800 24 00 24. Vediamo poi se riusciamo a metterci in collegamento, per esempio, con Giuseppe, che dice: negli ultimi anni gli italiani hanno perso il sonno tra bollette, cassa integrazione e non solo. Allora, la crisi economica agita la notte degli italiani nel vero senso della parola. Oltre il 40% di chi dorme male, secondo un sondaggio realizzato proprio in occasione della giornata mondiale del sonno, dà la colpa a preoccupazioni e stress in privato o sul lavoro. E non sono pochi, perché si calcola che siano 12 milioni i cittadini che vivono in deficit cronico di sonno. Dormono poco e male, si svegliano spesso, non riescono a riposare bene. Di questi poi il 16% sente la pressione delle troppe cose da fare in poco tempo. In particolare, e questo devo dire che non ci stupisce, ad accusare questi disturbi sono le donne. Chissà allora dove vi collocate voi, dove si collocano i nostri ascoltatori, raccontatecelo all'800 24 00 24. E come sempre potete seguirci mandando un messaggio al 349 238 6666, lo state già facendo in tanti. Potete come sempre seguirci anche su Facebook e su Twitter o inviarci una mail. Dottor Nobili, lo stress non ci fa dormire, come ci ha raccontato Debo. ancora e non dormendo siamo ancora più stressati. Sembra un po' un circolo vizioso, difficile da interrompere, ma che dimostra a tutti noi chiaramente il potere di un sonno ristoratore. Quali sono le caratteristiche però di un sonno disturbato dallo stress? Conoscendole magari possiamo capire un po' se sono davvero i problemi che interferiscono sulla qualità del nostro sonno oppure se c'è dell'altro. La più tipica è quella proprio di avere difficoltà a prendere sonno. Si crea generalmente un circolo vizioso per cui c'è l'aspettativa di voler dormire per forza e nel momento in cui il soggetto dice adesso devo dormire è il momento in cui può iniziare veramente a avere difficoltà. Quindi c'è la paura di non dormire, questa è la prima cosa che succede. Poi il sonno in realtà può essere anche frammentato oppure può essere anche un sonno apparentemente di durata buona, ma ci si svegliano riposati perché è un sonno molto instabile, come se si dormisse un po' allerta, ecco, durante la notte. Abbiamo in linea con noi Fabio, ci chiama dalla provincia di Lecco, al nostro numero verde. Buongiorno Fabio, buongiorno. Benvenuto. La domanda è molto semplice. Io dormo storicamente poco, nel senso che vado a letto generalmente tardi per tutta una serie di ragioni, quindi prima di mezzanotte e mezza io non vado a letto e non spengo. Mi sveglio generalmente per ragioni familiari verso le 6:30, quindi dormo circa 6 ore per notte. Un breve dormitore, direbbe il dottor Nobili, ecco, vero? Io mi sono sempre svegliato frequentemente. Da qualche giorno sto monitorando il mio risveglio. Mi rendo conto che ogni notte mi sveglio mediamente 3-4 volte e generalmente ogni ora. Mi sveglio, segno l'orario, mi riaddormento subito, però dormo generalmente un'ora, un'ora e mezza di fila, non di più. Mi chiedevo se era il caso di provare un centro di cura del sonno come quello del San Raffaele. Va bene, grazie intanto. Fabio che ci chiama dalla provincia di Lecco. Dottor Nobili, prima della risposta voglio ricordare ai nostri ascoltatori che è possibile rivolgersi a un centro del sonno, ma molti mi chiederanno bene dove lo trovo. Molto semplice, c'è un sito che raccoglie tutti i centri del sonno d'Italia, sono davvero tanti, è www.sonnomed.it. Dottor Nobili. Dunque, innanzitutto la cosa fondamentale è quella da chiedersi anche come si sta di giorno, perché uno può avere anche qualche risveglio durante la notte, ma sentirsi comunque in forma durante il giorno, il che non vuol dire quindi per forza che c'è un disturbo del sonno significativo. E poi durante la notte noi abbiamo dei cicli di sonno, quindi circa ogni 90 minuti il sonno si alleggerisce, si alterna la fase di cosiddetta non REM a quella REM in cui sogniamo, e in quel momento la nostra attività cerebrale è più simile alla veglia ed è possibile ad avere dei piccoli risvegli. Se a questi piccoli risvegli non segue una difficoltà di riaddormentarsi, può anche non essere assolutamente una cosa grave o patologica da curare. Ecco. Molti si svegliano per andare a fare pipì. E ne parleremo, voi vi svegliate, qualche cosa è proprio il bisogno di andare in bagno che disturba le vostre notti o cosa altro, una frenesia, il vicino, il vostro partner che russa, qualcuno che digrigna i denti, vi risvegliate all'improvviso quasi come se stesse vivendo un incubo? 800 24 00 24. Ma a proposito di sonno e di addormentamento, a lei e al suo gruppo, dottor Nobili, va il merito di aver scoperto che il cervello si addormenta a rate. Sì, una volta si pensava sempre che i limiti tra veglia e sonno fossero in maniera definita e che il sonno fosse per forza un processo globale. In realtà ci siamo accorti che ci sono delle regioni del cervello che possono addormentarsi anche molti minuti prima di altre, in particolare le regioni che controllano la memoria, strutture del cervello legate alla memoria, possono addormentarsi anche 15 minuti prima delle altre regioni del cervello. Questo forse ci spiega perché poi non ci possiamo dimenticare quello che facciamo nei momenti prima di addormentarsi. Allora, gli italiani fanno fatica, scusatemi ma stamattina ho qualche problema con le cuffie, ero distratta per questo, fanno fatica a prendere sonno, ne parlavamo anche poco fa, perché i loro denari molto spesso si addormentano, non si tratta di un problema legato alla crisi né ad alti livelli di melatonina, sono i cosiddetti rapporti dormienti, conti, libretti, polizze che ci dimentichiamo di avere sottoscritto, che magari ha sottoscritto qualcun altro per la nostra famiglia, un nonno che poi abbandona questi documenti in un cassetto, noi li ritroviamo e che cosa ne facciamo? Magari questo ritrovamento succede dopo decenni. A volte si tratta anche di cifre non indifferenti, di vecchie lire che erano nascoste da qualche parte e che non abbiamo mai convertito in euro. È quello che è successo per esempio ad una giovane pesarese, una precaria di call center, Claudia, che ha trovato, sentite bene, bene 100 milioni delle vecchie lire nella casa di uno zio defunto. E noi anche di questo caso parleremo nella seconda parte della trasmissione. Dottor Nobili, le è mai capitato di trovare qualche cosa a lei? Qualche cosa di così prezioso, una sommetta, un libretto, un titolo dormiente? Generalmente io perdo le cose. forse ho fatto fortunato qualcun altro. Allora 800240024, raccontateci se è capitato anche a voi di trovare un tesoro. Non solo tesori in denari, ma anche in cuore. A volte basta una fotografia, una lettera trovata nel solaio a riattivare emozioni e ricordi. Ma torniamo a noi. Non sogniamo, anzi, se i vostri sogni sono particolarmente agitati, paurosi, se a disturbare il vostro riposo sono veri e propri incubi o quelli dei vostri bambini, chiamateci subito. Dottor Nobile, è più facile occuparsi però dei titoli dormienti, perché dormono e a differenza delle persone non russano, non scalciano, non bruxano, non hanno crampi, non si devono alzare da letto a fare la pipì. Insomma, oltre allo stress e ai pensieri, ci sono tanti problemi che interrompono il nostro sonno. Alcuni motori, come quella frenesia a cui accennavamo, le gambe hanno bisogno assolutamente di muoversi, oppure i crampi, oppure magari dei rumori, sono infatti quelli che noi possiamo chiamare disturbi sonori. Beppone russava nel grande giardino. Parito russa, ma a volte non so, lo faccio muovere, lo faccio girare. Mi è capitato con mio marito. Adesso un po' mi sono abituata e poi russa un po' meno. Ogni tanto gli davo qualche col piede per muoverlo, insomma, così. L'unica cosa era andare a dormire da un'altra parte. Sì, mi è capitato di dormire con una persona che è russa. All'inizio l'ascolti, poi ti rendi conto che non smette mai. A quel punto ti alzi, le dai uno scrollone sulla spalla, questa si sveglia abbastanza arrabbiata e ti dice: che cosa è successo? Non mi stai facendo dormire. Nel sonno Beppone, che più non russava, il naso arricciava, rideva. Chi lo dice lo sa e chi non lo dice o mente o è single o non sa di esserlo. Confessatevi al nostro numero verde e raccontateci, perché ogni russatore lo sa che rumore fa. Si accettano metafore, russate come una motosega, come un trattore, come una caffettiera, fischiate come un treno. E se non siete voi a russare, come russa il vostro partner? Dottor Nobili, c'è un identikit? Uomo, donna, di una certa età, uomo di pancia? C'è un identikit del russatore? In realtà il russatore, chiamiamolo il russatore semplice, non ha un vero identikit. Può essere anche magro, magari ci sono delle conformazioni della sua gola, della sua bocca che lo portano a russare durante la notte. Il problema diventa quando al russamento si aggiungono anche delle pause, si entra in un altro disturbo che è quello delle apnee notturne. E quindi in quel caso allora già ci possono essere delle, generalmente sono persone che sono più in sovrappeso, anche se ci possono essere degli apnoici magri, dei magretti russatori che fanno anche apnee. Qualche apnea, perché hanno comunque una conformazione della bocca particolare o della mascella. Sono tipicamente quello che è diciamo il simbolo del paziente russatore con l'apnea, è un paziente in sovrappeso. E quindi quello che ci deve preoccupare del russatore, del russamento, è il fatto che si interrompa perché si va un po', come si dice, in effetti in apnea, cioè tratteniamo il fiato, esatto. O noi o chi ci dorme accanto. Esatto, il problema diventa quando questo russamento, che è continuo, come diceva prima il signore, cioè possono esserci russamenti continui e sono estremamente fastidiosi per la persona vicina, possono essere anche per la persona che russa, ma il problema principale è quando questo russamento diventa intermittente, quindi ci sono delle pause e poi delle riprese magari anche molto intense. Questo è un segno che dentro ci sono delle apnee. 800 24 00 24, andiamo a sentire Mirella che ci chiama dalla provincia di Ancona. Buongiorno Mirella. Buongiorno, siete stupende tutte e due. Grazie Mirella. Mi fate tanta compagnia, sono della città di Deborah. Fantastico. Di Ancona. E quindi allora, come dorme? Come dormiamo noi là? Ma guarda, io dormo molto bene perché abito in centro, però in una zona piuttosto silenziosa. Silenziosa, okay. Ringraziando il Signore perché è chiusa al traffico. Allora, il mio motto è questo: quando non riesco a dormire, certe volte succede, no? Sì. mi metto in posizione come quando si fa il morto nell'acqua del mare, no? Abbandonata, molle, molle, molle. Poi chiudo gli occhi e obbligo il mio cervello, senza parlare, naturalmente. Perché lui capisce anche se lei non gli parla, vero? Sì, il nostro cervello funziona così. A dire questa frase: non devo pensare più a nulla, devo solo dormire. Funziona? Non devo pensare più a nulla, devo solo dormire. Io dopo che col suo pensiero continuo a dire questa frase, dopo un po' mi addormento. È una specie di mantra, Mirella, invece che contare le pecore, lei dice al suo cervello, è una forma di quasi certa, Mirella, ma allora chiediamo agli ascoltatori anche di raccontarci, come ha fatto Mirella, che trucchetto utilizzano per dormire o per riprendere a dormire, a riprendere sonno quando questo si è interrotto. Ma la signora Mirella fondamentalmente è perché non ha paura di dormire, ha scoperto che in questo modo le facce, ma normalmente non ha problemi di sonno. L'insonne, quello che ha paura di dormire, nel momento che dice devo dormire, invece ha grosse difficoltà. Sicuramente ripetere una cosa, come diceva appunto, si crea questa specie di mantra per cui si rende impossibile entrare in pensieri che impediscono poi l'addormentamento. Anche i nostri bambini spesso hanno quasi paura di dormire, hanno per la fase dell'addormentamento, per i piccolini è davvero un momento di grande crisi. Avete qualche piccolino a casa? Approfittate della puntata di oggi per mettervi in contatto con noi. Noi andiamo a sentire qualche ascoltatore, ascoltatrice direi. Anche direi, però leggo anche qualche messaggio, li sto monitorando da qui, e c'era questa domanda di Francesco che mi incuriosiva, dottor Nobili, perché dice: esiste un tempo minimo che una persona deve dormire, oppure è una questione davvero strettamente individuale, oppure scientificamente esiste una soglia al di sotto del quale il fisico non ce la fa se non dorme un po'? Ma esiste una media, la media della popolazione dorme tra le 7 e 8 ore, e poi ci sono, come in una distribuzione statistica, dei limiti che vanno sino alle 9-10 ore alle 5 ore, quindi si può essere ancora normalità con un range molto ampio di 2 ore di differenza, quindi ci sono i cosiddetti corti dormitori che sono in grado, sembra, di concentrare sonno profondo in poco tempo, e i lunghi che hanno invece più tempo per poter produrre più attività di sonno profondo. Andiamo a Marie Claire, che ci chiama dalla provincia di Como, e poi voglio leggerle un messaggio di un nonno che ci racconta di del nipotino che fa delle cose un po' strane. Marie Claire, buongiorno. Sì, buongiorno, vi ringrazio per questa opportunità. Allora, io premetto che ho un sonno molto leggero, nel senso che se una persona si mette anche vicino a me, mi sveglio, me ne accorgo e mi sveglio. Ma il mio problema è durante il giorno, che quando sto facendo una cosa, magari sto scrivendo al computer, sono molto concentrata, mi appisolo, mi addormento, magari per 2 minuti, 3 minuti, poi mi sveglio, come se niente fosse. Volevo capire se questo era un vero e proprio disturbo o, non so, sono io che sono troppo stanca. Eppure durante la notte, anche se dormo 3-4 ore, 5 ore, mi sento molto bene quando mi sveglio. Sono molto molto riposata. Grazie Marie Claire. Dottor Nobili. In realtà uno può sentirsi riposata dopo, fa un ciclo di sonno di 90 minuti e ha una sensazione immediata di sentirsi riposato. Ma dopo comunque c'è bisogno di dormire di più per poter sentirsi svegli durante il giorno. Quindi se durante il giorno ci sono dei colpi di sonno, vuol dire che il sonno ha qualcosa che non va, o è poco, e quindi lei pensa di essere riposata, la sensazione immediata al risveglio non è indicativa di quello che succede poi tutto il giorno. È un buon inizio sentirsi riposato, ma non è tutto lì. Dipende, il sentirsi riposato dipende da che momento ci svegliamo. Se ci svegliamo un pochino nel sonno profondo perché c'è un rumore esterno, anche se abbiamo dormito 8 ore, possiamo avere la sensazione di aver dormito malissimo, poi durante il giorno ci sentiamo bene. Se ci svegliamo mentre stiamo sognando, magari anche dopo 2 ore abbiamo la sensazione di essere ben riposati, ma poi abbiamo dormito poco e di giorno siamo molto stanchi. Per valutare quindi, nel caso di Marie Claire, se questo suo bisogno di schiacciare un pisolino, questo proprio colpo di sonno, ne abbiamo parlato di recente proprio con il professor Ferini Strambi, ci sono degli esami da fare, un po' come l'elettrocardiogramma per il cuore, c'è un esame che misura la qualità del nostro sonno. Misura la qualità, la durata, si può anche prima magari fare un diario del sonno per contare nell'arco di una settimana quante sono le ore notturne che questa persona dorme, quindi se la persona dorme solo 4-5 ore, la causa probabilmente principale è che dorme troppo poco. Dobbiamo andare a sentire i mercati, sì. Volevo, se c'è tempo, rapidamente preparare il dottor Nobili sul caso di Bruno, che ci scrive da Bergamo. Ha un nipotino di 9 anni che da 3 parla mentre dorme, ma addirittura dice delle frasi logiche. Non a caso a volte scende dal letto dicendo vado all'oratorio, vado a comprare il pane, frasi del genere. Siamo costretti a togliere le chiavi dalla toppa per paura che lui esca in piena notte, ma si capisce bene che anche se ha gli occhi aperti lui dorme. Mi fate rispondere dal medico? Bruno aveva paura che rispondessimo tu e io, Deborah, ma sicuramente risponderà il dottor Nobili. Adesso andiamo a sentire i mercati. Cuore e denari. Vince, io mi uccido. Non voglio pietà, non voglio compassione. Io mi uccido. Meglio un giorno da leone, Vince. Meglio 100 giorni da pecora. Meglio un giorno da leone, no? No, non io, meglio un saccio da pecora e da leone. Fai 50 giorni da orso a chiotto. Me ne stai in mezzo, non fai la figura in mezzo alla pecora. E nemmeno leone, però, campione. Leone, orsacchiotto, pecora, 3 animali che raccontano 3 modi diversi di prendere la vita, ma anche gufo, allodola o colibrì, 3 pennuti per raccontarci i diversi ritmi con cui affrontiamo le giornate, intese come alternanza di luce e buio, oppure treno, motosega, trattore. Questi sono i modi con cui molti di voi stanno raccontando il russamento loro o di chi gli dorme accanto. Continuate a farlo all'800 24 00 24, ma raccontateci voi che dormite o non dormite se avete trovato qualche tesoro. Come affronteremo infatti questo secondo tema dei denari dormienti, titoli o conti, come si dice, Deborah? Dipende, può dormire di tutto, può dormire un conto corrente, una polizza assicurativa, un libretto di risparmio. E in questi ultimi anni peraltro molti casi li abbiamo messi anche su Facebook e vedo che gli ascoltatori si stanno divertendo a rileggerne, e praticamente ogni settimana in realtà leggiamo proprio sui giornali di qualcuno che ha fatto questo come incontro inaspettato. Pensa sotto la piastrella della cucina, esatto. Uno trova. No, guarda, io ho ristrutturato un anno e mezzo fa, non ho trovato un bel niente. Quindi chi abitava lì prima di me non mi ha lasciato nulla. Però il tema è che qualche volta chi trova questi piccoli tesori può andare a determinati soggetti a rivendicare queste somme, in altri casi invece c'è l'amara sorpresa in cui non si può rivendicare alcunché. E allora oggi ne parleremo appunto nella seconda parte del programma. Iniziate a prenotarvi se volete all'800 24 00 24. Dottor Nobili, ma ritorniamo a Bruno da Bergamo, che ci raccontava la storia del suo nipotino che insomma è sonnambulo, e da quello che ci racconta, adesso non per fare diagnosi, almeno sonnambulo lo descriveremo tutti noi, sentendo una persona che di notte si sveglia, cammina, parla, sembra ha gli occhi aperti, ma si capisce che sta dormendo. Esatto, sembra proprio un episodio di sonnambulismo e somniloquio, e rappresenta un po' l'altra faccia della medaglia di quello che dicevamo prima. Ci può essere una parte del cervello che si è già addormentata mentre l'altra è sveglia. Mentre dormiamo ci possono essere regioni del cervello che si attivano. Quindi il sonnambulo non è sveglio parzialmente. Alcune parti del cervello che sono sveglie, e generalmente sono quelle che dominano più dei comportamenti arcaici, che riguardano un po' le cose fatte anche durante il giorno qualche volta, e parti del cervello che sono quelle che invece permettono di essere coscienti delle proprie azioni, continuano a dormire. È un disturbo generalmente benigno che insorge a una certa età pediatrica e poi evolve positivamente, c'è una grossa componente genetica. Bisogna fare attenzione appunto a evitare che la persona che ne soffre si possa far male quando si sveglia di notte. Quindi ad esempio se è un bambino piccolo, cercare di chiudere la finestra e fare in modo, purtroppo sono successi anche dei casi che sono usciti nella strada, sono stati anche dei casi di traumatismi o violenze notturne, perché si tratta proprio di un momento in cui la persona non è cosciente di quello che fa. Ci sono, si diceva, non devi mai svegliare un sonnambulo, perché se si sveglia all'improvviso può avere un problema serio, può svenire o stare male. Più che altro il sonnambulo, se viene bruscamente, se si interagisce con lui in maniera brusca, può reagire anche lui in maniera brusca e qualche volta anche violenta, può spaventarsi. Quindi in realtà il sonnambulo va piano piano accompagnato a dormire, senza, non bisogna spaventarsi prima di tutto quando si vede un sonnambulo. Il sonnambulo va riaccompagnato nella propria camera da letto, e bisogna evitare che si possa far male, che esca nella strada. Sì, cominciamo a, riprendiamo anzi ad ascoltare le testimonianze dei nostri ascoltatori. Adesso vediamo un po' chi abbiamo. Ah, ecco, ritorniamo sul tema sollevato prima dell'apnea notturna. Alessandro da Roma, buongiorno. Sì, Alessandro. Buongiorno, le faccio complimenti. Grazie. E cercherò di essere breve. Sì. Allora, io ho l'apnea, un'apnea notturna, ma non è un'apnea ostruttiva. È un'apnea di tipo neurologico. Recentemente mi è stato proposto una riabilitazione della lingua per il corretto posizionamento durante la notte, perché mi è stato detto da questo professore che mi ha visitato che durante la notte, se la lingua è posizionata in modo corretto, il fisico rilascia delle sostanze che regolano il sonno, quindi mi dovrebbero evitare. Quindi Alessandro, il suo specialista gli ha detto: caro signore, è tutto un problema di lingua, è la lingua che non sa stare al suo posto mentre dorme. Esatto. Ecco, però, ma, dottor Nobili, c'è qualcosa di pazienza che non mi torna. Comunque, la lingua può essere un ostacolo alla respirazione, la lingua può cadere all'indietro e quindi può determinare comunque delle apnee generalmente ostruttive. È chiaro che il problema della lingua può essere anche neurologico e quindi poi da un problema neurologico si arriva a un disturbo ostruttivo. Quindi, però la cosa non mi risulta sinceramente molto chiara. Ci sono delle apnee che hanno un'origine neurologica, nel senso che i muscoli respiratori non funzionano bene per una causa neurologica. Ma a proposito di apnee, il messaggio proprio semplice che deve arrivare ai nostri ascoltatori è: se trattenete il respiro mentre russate, potete, se il vostro partner vi racconta questo, valutate la qualità del vostro sonno, fate degli esami, perché le apnee sono un rischio per la nostra salute, ma le apnee possono anche essere in qualche modo, non dico curate, trattate, ecco. Ma certo, cioè, le apnee interrompono il sonno e quindi danno come primo disturbo molto spesso la sonnolenza, ma hanno delle ripercussioni importanti anche sul sistema cardiovascolare, perché chi ha le apnee notturne può avere un rialzo dei valori pressori durante la notte. Ci sono tutta una serie di variazioni che possono avere anche effetti negativi sul nostro sistema cardiovascolare, e ci sono i trattamenti possono essere di vario tipo, da quelli più comportamentali, dalla dieta se principalmente sovrappeso, all'utilizzo di dispositivi che permettono di respirare meglio di notte, o interventi chirurgici, o addirittura anche a dei bite. Gli approcci sono diversi a seconda del caso e ogni volta va però fatta una diagnosi precisa, e ogni paziente ha un suo tipo di terapia che deve essere fatto ad hoc su di lui. Posso leggere una mail di Mario? Sì. Da Foggia, 28 anni, da qualche anno. Beh, tra poco andiamo, vicino a Foggia. Sì, andiamo a Bari. La settimana prossima siamo qualche giorno là. Non riesco a dormire se non con una traccia di rumore bianco in sottofondo. Rumore del phone, aspirapolvere e aerosol. Vorrei chiedere al medico se tutto ciò è una cattiva abitudine o se prima o poi le mie orecchie ne risentiranno. Le bollette senz'altro, dottore. No, è una tecnica. Vendevano anche dei CD che producevano del rumore bianco. È un qualche cosa che può ma cosa guardi, passa? Accende l'aspirapolvere tutta la notte? È come la signora cantava questo mantra, e altri possono utilizzare delle altre tecniche. In qualche modo è come spostare il pensiero che potrebbe andare nei posti tra virgolette sbagliati, viene in qualche modo condizionato. Quindi ci sono delle persone che possono dormire senza proprio mai avere dei problemi, altri che possono trovare anche delle situazioni bizzarre. Ognuno ha il suo metodo, io non discuto se la cosa funziona. Dottor Nobili, abbiamo sottolineato l'importanza del sonno per la nostra salute, per il nostro benessere, e tanto che ci sono ormai si potrebbe anche partire dal sonno per individuare, diagnosticare o trattare alcuni disturbi. Molti ascoltatori ci stanno scrivendo per capire se ci sono delle relazioni, ad esempio, tra diabete e insonnia, tra ipertensione e insonnia. Voi li avete studiati? Sì, ci sono molti studi che fanno vedere, ad esempio, che c'è una relazione tra disturbo del sonno provocato dalle apnee notturne e diabete. Le apnee notturne aggravano il diabete e possono addirittura favorire una alterata sensibilità all'insulina, quindi il trattamento delle apnee notturne migliora anche questo. Le persone che sono ipertese possono avere una pressione più alta anche durante la notte, e questo può provocare un sonno più disturbato, e viceversa un sonno disturbato può e avere un'interferenza negativa sui valori pressori. Quindi ci sono una serie di studi che dimostrano che probabilmente l'effetto del sonno è molto importante anche su questi aspetti. Clara, Amos e Andrea. Andiamo. Ti ne do tre, scegli quello che ti piace. Mi piace Amos, visto che prima siamo partiti con nomi risalenti a qualche tempo sapevo, fa. Lo sapevo. Amos, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Bravo. Io volevo come dare... fa con un nome così non farci complimenti? Ma è anche pericoloso, perché quando sei piccolo che fai qualcosa in un paese di 2000 anime ti beccano subito. È vero, non ci avevo pensato. No, volevo dare una mia valutazione personale, nel senso, io sono 20 anni che scrivo e sogno tutte le notti, poi alcune notti sogno proprio dei film che tornano, e devo dire che se il risveglio è brusco mi spavento moltissimo. Ho provato a andare a farmi vedere quando avevo 20 anni, adesso ne ho 44, no? Mi trovo benissimo con i miei sogni e mi sento rilassato, ecco. Mi serve anche per lavorare, ecco. Dura tutta la notte questo sogno, E soprattutto Amos ha la fortuna di ricordarselo, perché tutti sogniamo, ma al risveglio a volte non ci ricordiamo di aver sognato. Dottor sì, Nobili. Sì. Tutti quanti sogniamo, ma possiamo non ricordarcelo. Alcuni hanno un'attività onirica molto forte, se la ricordano, e questo fenomeno di vivere un sogno che qualche volta si ripete e che può essere più o meno legato anche a quello che è stato fatto durante il giorno è assolutamente frequente. Il sonno, sia quando sogniamo che non sogniamo, ha qualcosa a che fare con la memoria sempre, e quindi anche qualcosa a che fare con, se vogliamo, con la nostra parte artistica. Ricordarsi le cose durante la notte può migliorare proprio anche le nostre performance durante il giorno, nel suo caso appunto scrivere, o può essere assolutamente un qualche cosa è assolutamente fisiologico, diciamo. Mentre il fatto di svegliarsi e sentirsi spaventati se è brusco, e anche questo è legato al fatto che quando ci svegliamo bruscamente c'è un passaggio brusco da una attività cardiaca che è un pochino più bradicardica a una tachicardia. Se il passaggio è brusco uno può avvertire la tachicardia, e la tachicardia stessa crea poi spavento e paura, quindi. Insomma, è questione di tempo, di ritmo, di momento, e adesso è il momento di andare a sentire. Hai visto? Cosa succede sulle strade? Hai fatto una relazione tra qua, si sente ancora come scricchioli sul vetro. Cuore e denari. Mentre dormi ti proteggo e ti sfioro con le dita. E allora, oggi è la giornata mondiale del sonno. Vi abbiamo chiesto come dormite, cosa fate di notte. C'è chi ascolta l'aspirapolvere per conciliare il sonno, c'è chi scrive, non solo. Adesso invece vi chiediamo anche se vi è mai capitato nella notte, durante la giornata, di aprire un cassetto di casa vostra o magari della casa dei vostri nonni e di ritrovare un documento che dorme. È successo ad esempio alla signora Rita di Rovigo, una quarantenne disoccupata, mamma di 4 figli, che ha ritrovato un buono postale risalente al 1975. Ora ne chiede l'incasso e le poste, secondo i legali che la seguono, anche se non sono tutti d'accordo su questa interpretazione, le dovrebbero restituire 120.000 euro, perché nel frattempo i libri detto anche maturato gli interessi. Poi c'è il caso della giovane pesarese precaria di call center Claudia, che ha trovato 100 milioni di lire nella casa dello zio defunto. Pensa, uno che si tiene in casa 100 milioni. Ma qualche comunque, tempo fa, diciamo che banca, non è cosa nuova il non fidarsi di banche e altri soggetti. L'avrà messa sotto il letto, sì, sotto il materasso. Ma la Banca d'Italia dice che quelle banconote sono ormai carta straccia, quindi lei non riesce più a cambiare quel denaro. Lì, qua c'è proprio da perdere il sonno, dottor Nobili, dalla rabbia, Direi di sì. Sì, perché insomma. Ma abbiamo trovato anche un altro caso, e c'è sulla stampa di questo periodo la storia di Assunta, classe 1915, quindi 99 anni. Lei avrebbe ritrovato un libretto bancario del 1924 dove erano depositate 50 lire. Si legge in giro che in Banca Italia dovrebbe rimborsarle circa 7.000 euro, attualizzata questa cifra. Casi rari, leggende metropolitane, in realtà sono molto più frequenti di quanto non si creda, e non è sempre chiaro se siamo nel diritto di rivendicare queste somme. Comunque ci possiamo provare, perché questo almeno ci spetta. Oggi cercheremo di risolvere tutti i dubbi insieme ai nostri ospiti, ma intanto voi chiamateci e raccontateci se avete una storia simile a quella di Rita, Claudia e Assunta, tra l'altro tutte donne che vanno a come dire, non si fanno i affari loro? 800 24 00 24, nella prima parte ci avete già iniziato a raccontare i vostri ritrovamenti, sì, che vi sono sembrati colpi di fortuna, continuate a farlo e a raccontarci com'è andata, siete riusciti a recuperare qualcosa, a chi vi siete rivolti, ma naturalmente noi approfitteremo ancora della presenza qui in studio del dottor Nobili, e quindi continuate pure a chiamare se il sonno l'avete perso oppure se invece l'avete ritrovato. Ritrovare il sonno è sempre comunque un grande tesoro, un grande vantaggio per la nostra salute. 800 24 00 24. Io comincio intanto a salutare l'avvocato Giulio Ascioti, responsabile Dipartimento Fondi di Solidarietà di Consap, che è una società che fa capo al Ministero dell'Economia e che tra le altre cose gestisce proprio per conto del Ministero del Tesoro i cosiddetti fondi dormienti, cioè le somme maturate in banca o in posta non rivendicate da nessuno. Avvocato Ascioti, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, tra l'altro io anticipo ai nostri ascoltatori che siccome oggi la Nico mi abbandona a mezzogiorno, sì, nella seconda parte del programma noi naturalmente metteremo un po' sotto pressione l'avvocato Ascioti e risponderemo a tutte le vostre domande sul tema che vi stiamo appunto sottoponendo adesso. Ma quindi intanto gli farai fare un veramente un super lavoro. Esatto. Avvocato Ascioti, lei ha riposato bene stanotte, mi auguro, sì, no? Grazie. È pronto? Sì, pronto. È prontissimo, magnifico. Senta, subito un commento sulle prime tre storie che abbiamo raccontato, avvocato. Secondo lei come andranno a finire? Guardi, sono tre storie diciamo diverse nel merito delle questioni. Per quanto riguarda la prima, ovvero il ritrovamento di banconote in vecchie lire, io ricordo che a suo tempo fu stabilito un termine entro il quale convertire in euro tutte le lire. Esatto. Scaduto il quale temo che effettivamente non ci sia nulla da fare. Mannaggia. E quindi questa è una prima. Per la seconda storia, no, per il caso per esempio del buono postale delle 75 di Rita da Rovigo? Allora, guardi, per i buoni postali io posso ovviamente parlare per quello che riguarda la parte di competenza della mia società, cioè della Consap in fase di rimborso dei rapporti. Rapporti cosiddetti dormienti. Devo fare necessariamente una premessa che però è essenziale perché altrimenti temo che non si riesca a seguire il discorso. In pratica quelli che vengono, e poi spiegherò perché impropriamente, detti rapporti dormienti, altro non sono che le fonti di alimentazione di un fondo istituito nel 2005 a favore delle vittime dei cosiddetti crack finanziari, sì, quindi Parmalat, Cirio e, esatto, e altro. Esattamente. Ora questa legge stabilisce che a questo fondo venga alimentato da determinati rapporti normalmente caratterizzati dal non uso protratto per un certo periodo di tempo, ovvero dalla prescrizione, certo, del rapporto stesso. La precisazione che è doveroso fare è che questo, che non tutti i rapporti che affluiscono a questo fondo sono rimborsabili, perché il rapporto che si è irrimediabilmente prescritto a norma dell'ordinamento non è rimborsabile, come non lo sarebbe stato nemmeno se questo fondo non fosse stato mai creato. Va bene, allora fra un po' ritorneremo su quali casi allora possiamo sollevare di fronte, vedremo anche a quali soggetti per rivendicare o meno queste somme, ma anche se questi tre casi che abbiamo detto apparentemente sono casi per i quali non si apre nessun diritto di rimborso, in realtà poi li abbiamo contattati anche ieri ma sono introvabili, c'è un'associazione di avvocati che a quanto pare invece sta tentando tutte le vie possibili per rientrare di queste somme, in alcuni casi ci riesce anche, bisognerebbe capire come fanno, avessero risposto saremmo stati più contenti. E se ci stanno sentendo fatevi hanno perso un'occasione. Sì, ma possono sempre chiamarci. Certo. Adesso come stanno facendo ancora i nostri ascoltatori per mettere un po' a punto il loro sonno, Andrea dalla provincia di Monza Brianza, 800 24 00 24, voilà, noi siamo da lei. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E grazie per l'opportunità. Io chiamo perché ho un bimbo di 3 anni e 2 mesi che da un paio di mesi a questa parte di notte, dopo qualche ora di sonno, quindi presumo quando è nel profondo del sonno, digrigna in maniera violenta i denti. I denti. Sì, volevo capire se è una patologia su cui eventualmente si possono fare degli accertamenti, degli approfondimenti, se è una cosa naturale nei bimbi o se eventualmente può essere un riflesso di qualcosa di psicologico. Molti partner bite dicono che con questo hanno risolto il bambino. Ha 3 anni, dottor Nobili. Ma il bruxismo è molto frequente in età pediatrica, estremamente frequente, e può essere anche una cosa assolutamente tra virgolette parafisiologica e passeggera. Poi ci sono delle cause che possono provocarlo, la deprivazione di sonno stessa del bambino può provocare poi anche il bruxismo, altre condizioni esterne possono farlo. Quindi da valutare. Noi vi lasciamo, sì. Io e il dottor Nobili. Bene. Io non vado a schiacciare un pisolino, il dottor Nobili torna. Lasciate lavorare solo me, bravi, bravi. Però lunedì ci siamo di nuovo. Perfetto. Grazie, saluti. Noi ci sentiamo tra un po' con i rapporti dormienti. Non devo pensare più a nulla, devo solo dormire. Non devo pensare più a nulla, devo solo dormire. Cuore e denari. Principessina, se la triste profezia si avverasse, bimba mia, non per questo morirai, ma nel sonno tu cadrai. E il tuo sonno cesserà se l'amor ti bacerà. Sia questo il più fulgido dei tuoi doni, che la speranza mai ti abbandoni. Ed eccoci ritornati nella giornata mondiale del sonno. Ancora buongiorno da Deborah Rosciani. Noi oggi vi parliamo di quando invece sono i denari ad addormentarsi. Con noi è rimasto l'avvocato Giulio Scioti, responsabile Dipartimento Fondi di Solidarietà di Consap, che è una società del Ministero dell'Economia. Sono tante le storie e le notizie che si sentono, alcune ve le abbiamo raccontate nella prima parte del programma, tante ce ne state raccontando voi, continuate a farlo all'800240024. Avete ritrovato in un cassetto di uno zio che non c'è più un buono fruttifero, un libretto di risparmio, un conto corrente, una polizza o magari un bel po' di vecchie lire che non sono mai state cambiate in euro? Negli anni tra il 1940 e il 1980, ieri abbiamo ritrovato questa ricostruzione, era tradizione diffusa da parte dei parenti sottoscrivere in favore di minori in occasione di nascite, battesimi e altre ricorrenze buoni postali in favore dei minori stessi, i quali naturalmente non potevano essere a conoscenza di questi fatti. E proprio per questo ne parliamo oggi, perché capita che in molti casi questi titoli vengano ritrovati dopo decenni. Si possono rivendicare in qualche modo. Qualche volta qualche procedura di rivendicazione si conclude con successo, ma nella gran parte dei casi no. Allora, avvocato Scioti, noi stamattina dovremo rispondere alle domande degli ascoltatori e non le dico in quanti ci stanno chiamando, ma questo mi stupisce molto, ma c'è davvero una casistica molto ampia di conti che ancora dormono, di rapporti appunto con altri, con intermediari finanziari di vario tipo che dormono, ma voi siete a conoscenza di quanto ci può essere in circolazione? Guardi, assolutamente sì, noi non possiamo ovviamente essere a conoscenza di quanto ci sia in circolazione, però da quando gestiamo questa funzione, cioè dall'estate del 2010, praticamente noi riceviamo un numero medio anche superiore alle 10.000 istanze all'anno. 10.000 istanze all'anno? Esatto, pazzesco. Con un andamento piuttosto costante, in pratica non si è verificato una calo apprezzabile nel numero delle istanze, il che significa che quotidianamente verosimilmente vi sono dei rapporti che vengono acquisiti dal fondo crack finanziari, e quindi quotidianamente vi sono, per chi rintraccia o ritrova questo rapporto, prospettive o quantomeno aspettative di rimborso. E ecco. I prodotti di risparmio più diffusi che chiedono di essere risvegliati quali sono? Guardi, sicuramente e correttamente direi gli assegni circolari, ancorché solo da parte di chi ne ha richiesto l'emissione, non da parte del beneficiario, perché per il beneficiario sono irrimediabilmente prescritti, e libretti di deposito. Questi sono, diciamo, le istanze, le tipologie più frequenti che riscontriamo nelle istanze. E senta, avvocato Scioti, la Consap per quali di questi rapporti dormienti ha la specifica competenza eventualmente di risveglio o comunque di gestione? Di rimborso, diciamo, di rimborso. Sono ovviamente in presenza delle le altre condizioni, però sono astrattamente rimborsabili i libretti di deposito, gli assegni circolari solo in favore di chi ne ha richiesto l'emissione, ovviamente i conti correnti, poi i fondi di investimento, e direi queste sono le tipologie rimborsabili. E poi avete anche una branca specifica dedicata alle polizze. Questo è il discorso delle polizze. È più complesso. Le polizze non sono rimborsabili perché irrimediabilmente prescritte. È stato il Ministero dello Sviluppo Economico a stanziare una determinata somma per far sì che venissero soprattutto rimborsate quelle polizze che sono state acquisite al fondo crack finanziari in base a una norma che ha introdotto anche circa un anno e mezzo di retroattività. Quindi per compensare questo anno e mezzo di retroattività della norma, il Ministero dello Sviluppo Economico a beneficio dei consumatori ha voluto stanziare una somma, ma questa somma non ha nulla a che vedere con i rapporti dormienti. In pratica non sono somme che noi necessariamente come rapporti dormienti. Le polizze non sono rimborsabili. Sono rimborsabili solo se prescritte entro un determinato arco di tempo, ma per effetto non già della dormienza che non c'è, ma per effetto di questa autonoma iniziativa assunta dal Ministero dello Sviluppo. Che aveva creato grande caos anche un paio di anni fa, quando erano stati appunto modificati i termini prescrizionali, perché erano stati ampliati a 2 anni, se non ricordo male, no, avvocato? Prima da 1 anno a 2, poi a 10 anni. Esatto, poi era stata una buona notizia, ma c'era stata appunto una retroattività della prescrizione che aveva generato caos. Non riaprirei allora questo tema, andrei ai casi che stiamo affrontando questa mattina, né a quelli che ci hanno un po' stuzzicato anche leggendo le notizie di stampa. Ha un'idea di quante telefonate abbiamo noi su questo argomento? All'incirca, come dire, siamo in linea con il trend che gestite voi al Consap. Non dico 10.000 telefonate, ma ne abbiamo molte. Vediamo a quale riusciamo a rispondere. Allora, siccome sono tutti casi molto specifici, io voglio tutelare, ovviamente, perché qua è il nostro lavoro e anche quello, l'avvocato Asciotti. Adesso io non so se a tutti riusciamo a dare risposte precise. Detto questo, magari, avvocato, possiamo provare a dare anche un indirizzo, no, sulle risposte, e vediamo in quali casi ci si può rivolgere a Consap, in quali casi ad altre istituzioni. Allora, comincerei, perché era in attesa da un po', con Alessandra da Roma, che appunto introduce proprio il tema delle polizze. Vediamo cosa si può fare. Alessandra, all'800 24 00 24, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Grazie a lei. Volevo dire che casualmente un po' di tempo fa abbiamo ritrovato una vecchissima polizza, pensi addirittura del 1948, che mia suocera aveva fatto con l'INA sulla vita del figlio, cioè mio marito. Non si capisce poi perché, lui era nato in Africa, in campo di concentramento. E comunque lui non era assolutamente a conoscenza, no? Da quello che capisco. Non solo, ma loro, i miei suoceri non hanno mai parlato di questo, secondo me non se lo ricordavano neanche loro. E quindi così casualmente è venuta fuori questa polizza dell'INA sulla vita di mio marito, cioè se moriva doveva dare una certa cifra. Ora, siccome per fortuna mio marito è ancora vivo, nonostante abbia 71 anni, volevo sapere se per caso uno poteva cercare di sapere se si poteva attualizzare la somma e rivendicarla. Avvocato Asciotti, allora abbiamo detto che per le polizze vita c'è un termine di prescrizione di 10 anni, già solo questa indicazione ci direbbe che non si può fare nulla. In realtà questo termine prescrizionale, se non mi ricordo male, per le polizze di nuova produzione da un determinato anno in avanti, non mi ricordo quale sia, dico male? 2012. Ecco, e però Alessandra, qua ancora peggio, perché in questo caso questa polizza è prescritta da un bel po'. Ma guardi, innanzitutto c'è una premessa da fare, perché ho ascoltato cosa diceva la signora Alessandra. Se era previsto solamente il caso morte del soggetto, la sua permanenza in vita oltre la data di scadenza della polizza annulla di per sé stesso qualunque quindi qui interviene un ulteriore risarcitorio. Un ulteriore e invece è probabile che magari la polizza sia stato un caso misto, cioè avrebbe operato sia in caso di premorienza sia in caso di sopravvivenza alla data convenuta di scadenza. Ora io non conosco la durata di questa polizza, però calcoli che mi spiace di dover essere così negativo, ma purtroppo è la legge. Diciamo ormai il discorso rimborso polizze è chiuso perché è scaduto proprio pochi giorni fa l'ultimo termine per poter presentare la domanda. In ogni caso si sarebbe dovuto trattare di polizze prescrittesi tra il 1 gennaio del 2007 e il 31 dicembre del 2009. Bisognerebbe vedere dove sarebbe caduta la data di prescrizione della polizza della signora, del marito della signora Alessandra, fermo restando che però ormai questa funzione si è definitivamente chiusa. Certo, ma avvocato Ascioti, ogni caso è molto specifico perché non esiste evidentemente, come dire, una casistica uniforme, perché è impossibile che possa esserci. In situazioni come quella che ci ha descritto Alessandra, voi quando vi arrivano appunto delle richieste di informazioni, dove indirizzate questi consumatori, risparmiatori, questi cittadini? Come li indirizzate? Certo, noi rileviamo subito se vi sono margini, anche incerti, di intervento di CONSAP per le funzioni che le sono state attribuite dai vari ministeri. In tal caso indirizziamo immediatamente il cittadino verso il nostro sito, che tra l'altro è riprodotto anche sul sito del Ministero dell'Economia, dove vengono dettagliate tutti gli adempimenti da porre in essere per presentare la domanda di rimborso. Viene allegato il modulo di domanda, insomma c'è un sito fatto molto bene, proprio che guida, prende per mano il cittadino praticamente passo dopo passo, proprio per cercare di agevolarlo. E ovviamente rilevassimo subito che il caso dedotto non rientra tra quelli per i quali noi possiamo intervenire, diciamo, rispondete immediatamente. Consigliamo a seconda dei casi il cittadino eventualmente di rivolgersi a un altro dante causa. Faccio l'esempio, la prescrizione di per sé stesso è un istituto che è posto a beneficio di chi ha interesse a farla valere. Non è un istituto che opera automaticamente, perché opera e ci deve essere colui che ha interesse ad eccepire la prescrizione che dice no, non te do una lira, scusi se parlo. E vabbè, quindi una compagnia di assicurazione tipicamente può far valere i termini prescrizionali. Ecco. Ora, ci può essere la compagnia di assicurazione che non intende avvalersi del termine prescrizionale, che so, perché è un cliente di riguardo, perché intende farsi pubblicità anche attraverso questa forma di beneficio, di aiuto ai clienti e così via, quindi non è detto che la prescrizione debba necessariamente essere fatta valere, diciamo magari la compagnia si tutela in questa maniera, ma qualora con un po' di sforzo e di buona volontà il cliente lo richiedesse, non è detto che il termine prescrizionale appunto si possa aprire. Avvocato Ascioti, chiedo a lei e ai nostri ascoltatori che sono in attesa solo un minutino di pazienza, perché noi oggi avevamo in programma anche di far giocare i nostri ascoltatori con un film. I nostri amici che ci seguono da casa vanno al cinema molto volentieri. Allora, avete sentito parlare del film Ipercondriaco, che sta uscendo in questi giorni? Il regista è Danny Boone, lo stesso di Giù al Nord, e racconta la storia di Romain, un fotografo per un dizionario medico online, che è vittima di una ipocondria che segna la sua vita ormai da troppo tempo e fa di lui un vero e proprio nevrotico in preda alle paure. È un film molto divertente, dato che ridere fa bene alla salute, noi abbiamo deciso di mandarvi al cinema. Come fare? Sentite questo suono? Adesso mandateci un SMS con il vostro nome al 349-238-6666, ai primi 5 una coppia di biglietti da poter utilizzare in una delle sale del circuito UC Cinema in tutta Italia, o UC Cinema, chiamatelo come volete. Tra un po' magari vi rifaccio sentire di nuovo il nostro suono, così vi ricordate che potete mandarci il vostro nome e aggiudicarvi questi biglietti. Allora, altri ascoltatori per chiarire un po' come risvegliare i rapporti dormienti, vediamo chi abbiamo adesso. Mirella dalla provincia di Latina, buongiorno, grazie. buongiorno, no, non voglio parlare di polizze, vorrei soltanto precisare sì. che l'impossibilità, la scadenza della convertibilità di lire in euro non ebbe una scadenza naturale, ma fu, io aggiungo, proditoriamente decisa dal governo Monti un venerdì sera dopo la chiusura delle banche, anticipando di circa due mesi quella che sarebbe stata la scadenza naturale prevista dalla legge. E io mi sono sempre chiesta se non ci fosse il caso di fare una class action, cioè se un governo può all'improvviso, il venerdì sera, anticipare una scadenza così importante per motivi di cassa. Però Mirella, no, io capisco e condivido con lei che non è un'azione che ci sembra opportuna e corretta. Il governo Monti, quindi un paio d'anni fa, ha fatto questo intervento. Io onestamente non me lo ricordo, ma lo vado a ripescare molto volentieri, perché è giusto appunto che lo sappia. Detto questo, abbiamo avuto un bel po' di anni però per rivendicare le somme in lire, due mesi in più. Detto che non è corretto che l'abbiano chiusi, non lo so, avvocato Ascioti, quanto tempo abbiamo avuto per fare questa conversione? Lo sa che non, sinceramente non mi ricordo, ma non mi sembra nemmeno di ricordare il che risalisse ai tempi del governo Monti, mi sembra di ricordare fosse prima. Sinceramente non ricordo. Vabbè Mirella, qua ci coglie impreparati, ce ne scusiamo, ma ci informiamo immediatamente non appena io chiudo la trasmissione. Wanda da Roma, buongiorno, ha trovato invece un libretto del suo papà. Buongiorno. Sì. Buongiorno, senta, dunque io ho trovato un libretto di deposito di mio padre, di una banca di Bari, perché all'epoca abitavamo a Bari, poi ci siamo trasferiti a Roma, e della Cassa di Risparmio di Bari. Allora, sì. ci sono depositate 125.000 lire. Ora, io non so come fare, se è possibile eventualmente... Ha già chiesto, Wanda? Ha già chiesto? Io ho già chiesto alla mia banca, però sono correntista di due banche, però nessuna delle due mi ha saputo dire nulla. Da chi è stata incorporata questa Cassa di Risparmio di Bari, che comunque non risulta più da nessuna parte. Ora, la mia domanda è questa. Una, come eventualmente posso... cioè io erede insieme a mio fratello, ecco. Entrare in possesso, perché nel frattempo i miei genitori sono morti e quindi ovviamente siamo soltanto di eredi. Quindi rivalutare allora, questa sì. cifra, Wanda, guardi, sono telegrafica purtroppo, sì. perché il tempo è terminato. In realtà avvocato Ascioti, Wanda ha ragione, se non fosse per il fatto che ci sono molte banche che si sono aggregate in questi anni e assorbite da altri istituti, e quindi in questo caso proprio risalire allo sportello originario presso il quale abbiamo sottoscritto questo prodotto di investimento, chiamiamolo così, è molto difficile. In questo caso la procedura che dovrebbe seguire, Wanda, secondo lei qual è? Assolutamente sì, beh, certamente informarsi, glielo direi io volentieri se lo sapessi, informarsi a quale gruppo holding o altre cose è affluita la Cassa di Risparmio di Bari, che sinceramente non lo so. Ecco, ammettendo però di ritrovare, ecco, se riusciamo a capire appunto nel processo di aggregazione questo sportello originario, esatto. dove è andato, cosa fa? Ecco, dopodiché andare all'attuale sportello di quell'istituto, dell'istituto diciamo che ha ereditato tutti i rapporti. Guardi, noi di questi casi ne abbiamo numerosissimi, però il rapporto che ci interessava è sempre stato rintracciato. Magari ci vorrà un po' più di tempo, però non ci siamo mai scontrati con un rapporto, tra virgolette, smarrito. Prima o poi questo rapporto si ritrova. Infatti. Allora, tra l'altro, Wanda, mi sembra anche strano che non si mettano questi due, questa la banca dove sta adesso, un po' di buona volontà ad aiutarla. Avvocato, purtroppo abbiamo terminato la nostra trasmissione, ci sarebbero state tante altre domande per lei, ma sa che faccio, che io gliele mando oggi tutte quante con la mail, così mi faccio aiutare per forza. Grazie. Avvocato Ascioti, io suggerisco agli ascoltatori di andare sul sito di Consap per avere tutte le informazioni, anche solo per accontentare le proprie curiosità. Abbiamo aggiudicato tutti i biglietti per andare a vedere Ipercondriaco, ne sono molto contenta. Ci sentiamo lunedì, buon weekend a tutti.